2. Ascolta e ripeti. Che peccato. Ho dimenticato di portare gli spartiti. Non devi preoccuparti. Ne abbiamo molti. Nicolas, uno studente del corso di gennaio, ha lasciato qui alcuni libri di musica. Aveva portato con sé gli spartiti necessari per esercitarsi, perché si preparava per l'esame di ammissione al conservatorio. Prima di iniziare il corso d'italiano, aveva già studiato moltissimo sia la lingua italiana sia la musica. Ha superato l'esame di ammissione al conservatorio. E alla fine del corso ha deciso di regalare a noi gli spartiti. Che gentile! Così tutti possono suonarli. Esatto! Questo è stato il suo regalo. Ha dato a noi gli spartiti. Così altri studenti potranno usarli.